questo lunedì 2 luglio. I titoli intanto apro con il Sole 24 Ore, addizionali IRPEF al massimo. Questo è il titolo dell'apertura dell'edizione del lunedì, le tasse municipali, con uno screening di tutto quello che succede nelle maggiori città italiane. Poi le due aperture che trovate sui giornali sono l'Italia, la disfatta purtroppo nella finale contro gli spagnoli nel campionato europeo, e poi che cosa? La Lega, per la notizia politica del giorno, la Lega si affida a Maroni. Questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per la Stampa, Maroni, segretario senza tutele, Bossi lascia tra lacrime e veleni. C'è chi invece sceglie proprio gli azzurri, Repubblica, azzurri, la grande delusione. Il Messaggero, Spagna nella storia, lacrime Italia. Fino ad arrivare al titolo di Libero, ci hanno preso gusto, no, con questi titoli dopo il Vaffan Merkel. Libero titola così: Monti porta sfiga, un titolo a tutta pagina. L'Unità, il sogno è svanito degli azzurri, ma anche basta tagli alla Tremonti, proprio il tema di cui ci occuperemo alle 8.30. Il Giorno invece mette un Balotelli in lacrime a tutta pagina, il titolo è Peccato, mentre il Giornale grazie lo stesso. Ah, tra l'altro Libero, devo dire, in edizione straordinaria, perché Libero di solito non esce il lunedì. Allora, voglio partire da qualche segnalazione. La prima è una bella intervista che trovate sulla Stampa, pagina 28. È autore Nicolò Zancane, viene intervistato Marco De Paolis. Chi è Marco De Paolis? È il capo della Procura Militare di Roma, che in tutti questi anni ha tentato di perseguire tanti criminali ex nazisti, autori di stragi nel dopoguerra italiano. La mia guerra solitaria per mandare in galera i criminali nazisti, questo è il titolo dell'intervista al capo della Procura Militare. Ora si racconta in un libro che è uscito da poco e si intitola La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia, e questo è il racconto di cercare di dare giustizia a 3.500 vittime innocenti, anzi per la precisione sono 3.555 vittime innocenti di stragi, appunto, compiute da soldati delle SS di allora nell'immediato al volgere della fine della Seconda Guerra Mondiale. Da piccolo sognava il mare, da ragazzo voleva fare il magistrato, è diventato l'ultimo cacciatore di nazisti, così è definito Marco De Paolis, capo della Procura Militare di Roma, che racconta: abbiamo aperto oltre 500 fascicoli d'inchiesta, celebrati 15 processi, altri 3 in corso, abbiamo rinviato a giudizio 75 persone, ottenuto 55 condanne all'ergastolo. Spiego tutto questo come alla domanda come spiegherebbe a un ragazzo di 18 anni il famigerato armadio della vergogna, cioè 695 fascicoli grondanti crimini nazisti che furono nascosti in Italia, mai perseguiti fino al 94. Lo giustifico con la ragione di Stato, purtroppo, cioè con valutazioni di carattere politico che si sovrappongono alle esigenze di giustizia e in alcuni casi fino a cancellarle. E poi racconta anche la sua esperienza personale, cosa si prova a rievocare in aula rastrellamenti, fucilazioni, bambini ammazzati a sangue freddo. È stato molto duro, complicato, ma c'è anche un fortissimo riscatto morale. E cosa provo invece nell'interrogare molti ex appartenenti alle SS? Spesso in loro trova un'estrema freddezza, nessun desiderio di alleggerire la coscienza, persone che continuano a essere legate a quella ideologia, nazisti nell'animo. A molti di loro i processi sono serviti per dimostrarsi ancora fedeli. Per esempio penso a Gerhard Sommer, uno dei condannati per l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, oppure il sergente Helmut Wolf, condannato per l'eccidio di Marzabotto. Nessuno dei condannati è in carcere, chiede Zancana. Come spiega il comportamento della Germania che respinge i vostri mandati d'arresto? Non so spiegarmi questo atteggiamento, se non con la paura di essere coinvolta direttamente e magari vedere pregiudicata la propria immagine. Era la guerra, dicono, e la guerra è passata, una storia chiusa. Sì, dicono così, risponde De Paolis, con molte perifrasi. In realtà la situazione è è più complicata, ha mai la sensazione di essere un cacciatore di fantasmi? Al contrario, andando a fondo in queste storie, si capisce che sono molto reali, storie di carne ed ossa. E a chi mi ha detto come il caporale Alfred Stork, che è stato uno degli esecutori della strage di Cefalonia, dopo aver ucciso 117 ufficiali italiani, mi disse ora lasciatemi in pace, io rispondo non dovrebbe dirlo a me ma agli orfani dei caduti, e forse non avrebbe il coraggio di dirglielo in faccia. Insomma, questa è la storia di Marco De Paolis, uscito con un libro, La mia guerra solitaria per mandare in galera i criminali nazisti, parla alla stampa il procuratore capo della Procura Militare di Roma. Poi vorrei, ci sono tanti articoli in realtà di quella che ormai è diventato purtroppo un appuntamento quasi di routine del lunedì. In Africa ancora delle chiese cristiane attaccate, in questo caso è successo in Kenya. Sangue nelle chiese, così è il titolo della stampa col reportage di Domenico Quirico, lo trovate a pagina 20. La domenica, il giorno del martirio, bisogna apprestare il proprio coraggio, oggi come in lontani tempi ignobili e vili, per sillabare un credo, per inginocchiarsi alla nudità della croce. Inizia così il racconto appunto di come nel nord del Kenya dei terroristi abbiano attaccato due comunità cristiane durante la messa, si parla di una ventina di morti. Tra l'altro su questo c'è un'interessante intervista a una persona che si occupa da tempo di questi temi, vale a dire padre Giulio Albanese, intervistato dall'Unità a pagina 12, il fondatore dell'agenzia missionaria Misna, padre Comboniano: chiese simbolo dell'Occidente, religioni usate a fini eversivi. Racconta all'Unità padre Albanese: in realtà chi ha colpito al 99,9% sono gli Al-Shabaab. Sono fanatismo allo stato puro, sono solo un manipolo, non più di 3-4 mila persone, ma imprevedibile. Hanno già ucciso molti somali, molti musulmani, in Kenya hanno già attaccato stazioni di polizia, presidi pubblici. Ora le chiese cristiane, interpretate come un simbolo della penetrazione occidentale. Sono convinti infatti che l'intervento delle truppe keniane ed etiopi in Somalia serva interessi occidentali, e dunque colpire i cristiani fa parte della loro strategia. Sanno che è un obiettivo mediaticamente più sensibile. La notizia avrà infatti una rilevanza maggiore, avrà più risonanza internazionale, susciterà indignazione, ma dovremmo indignarci anche quando a morire è un poliziotto keniano. È come dire, dice Albanese, la religione è un pretesto, cioè colpiscono non tanto in quanto vogliono fare una guerra di religione, come spesso si dice, ma quanto perché vogliono avere una rilevanza internazionale nel porre il caso della Somalia, dove questi Al-Shabaab stanno facendo il bello e il cattivo tempo, purtroppo. Va bene, ci fermiamo 5 minuti? Sì, e poi ripartiamo dall'azzurro oggi un po' sbiadito che troverete sui giornali, tanto azzurro ma anche macchiato dall'acqua, dalle lacrime uscite dal viso, dagli occhi di tanti giocatori e non solo. Ripartiamo da qui, poi tagli, poi la Lega di Maroni, tra poco. Eccoci allora alle 7:35 minuti. Mamma mia, oggi uno prende qualsiasi giornale e trova, c'è da deprimersi in prima pagina, ma di qualsiasi giornale, anche le prime pagine, non della Gazzetta dello Sport che ho qui sotto mano, così fa male, questo è il titolo d'apertura, e c'è Balotelli con una lacrima proprio che gli riga il volto, preso immortalato con la lacrima che gli solca proprio tutta la guancia sinistra, ma non solo lì, tutte foto con giocatori azzurri a capochino, titoli pianto azzurro, ma poi pagine, mica le pagine dello sport, pagine che ne so, le prime 9-10 pagine dei quotidiani generalisti, Corriere della Sera, Repubblica, pianto azzurro è il titolo appunto di Repubblica, pagina 2-3. Pagina 2 e 3 del Corriere della Sera: l'Italia non riesce il miracolo, ma si va avanti fino a pagina 10 a parlare di questa partita di calcio. Avessimo vinto, saremmo andati avanti fino a pagina 20, non lo so. Sta di fatto che è una depressione incredibile, viene a vedere tutti questo azzurro sbiadito, azzurro annacquato dalle lacrime, questi giocatori a capochino, teste rivolte verso il basso, e insomma questo è un po' il tenore delle prime pagine dei giornali di oggi. Vedete anche pagina 11 della Stampa, incerottati, sfiniti, svuotati, epilogo triste in lacrime. È finita così, è finita 4-0 con un dominio letterale da parte degli spagnoli dal primo all'ultimo minuto, un'Italia che è arrivata evidentemente sfinita a questa finale, mentre la Spagna invece ne aveva di più. Non mi interessano tanto le notizie calcistiche in sé o le citazioni calcistiche, magari capire quello che ha nei riflessi sui giornali per quel che riguarda la politica, per quel che riguarda le cose di cui ci occupiamo tutti i giorni. Beh, la prima, vabbè, lo voglio ricitare, no? Questo titolo è vero, anche su Twitter molti lo scrivevano, queste cose provincialissime italiane. Già è notorio che essere superstiziosi porta sfiga. Ma ieri moltissimi, già quelli che vivevano la partita con le stesse posizioni delle semifinali, perché lì era andata bene. Siamo un popolo in questo veramente di neanche serie C, sotto zero bisognerebbe dire. Comunque Libero, lo ricito il titolo, Monti porta sfiga, così a tutta pagina. Molti sottolineano il fatto che il premier volato a Kiev, questo sì, ha colpito anche me, inquadrato al momento dell'inno, non cantava, cioè non aveva le labbra proprio serrate, sembrava quasi che non sapesse il testo, cosa che ovviamente escludiamo totalmente, ma era un Monti un po' spaesato, un po' paralizzato. Poi Monti è andato negli spogliatoi, il Corriere racconta per esempio a pagina 8 e 9, siamo fieri di voi, ha parlato agli azzurri. E poi è tornato sulla questione delle scommesse, perché due mesi fa, ricordate, Monti aveva detto, di fatto, opinione personale, non da Presidente del Consiglio, ma fosse per me sospenderei il calcio per 2 o 3 anni, forse è una cosa che potrebbe anche farci bene. Ovviamente è tornato su questo tema e ha detto Monti, mai dubitato della grandezza del calcio, mai avuto dubbi. Sono dispiaciuto quando si danno prove negative nel vivere civile. E comunque, insomma, Mario Monti che ha detto noi italiani siamo capaci di superare le difficoltà, arrivare secondi in Europa, avremmo messo una mano sul fuoco. Insomma, Mario Monti che è andato poi lì a Kiev e ha fatto la mossa sulla quale molti giornali oggi dicono bene, ci voleva, di che cosa? Beh, di chiedere con una lettera e congiuntamente con il premier spagnolo Rajoy di incontrare Yulia Tymoshenko in carcere. Lo ha fatto con una lettera al presidente ucraino Yanukovych, di chiedere appunto prima di arrivare allo stadio la possibilità di incontrare Yulia Tymoshenko. Tra l'altro Repubblica intervista la figlia Yevgenia, la figlia di Yulia Tymoshenko. Dice, finalmente davvero Monti e Rajoy hanno scritto una lettera al presidente? È fantastico, li ringrazio molto per questo, è quello che speravo, è quello che ci si può aspettare da forze democratiche in favore di prigionieri politici in Ucraina. È il segno che non accettano le scelte del presidente ucraino. Hanno appoggiato le loro squadre, sì, ma al tempo stesso non si sono dimenticati che qui i diritti umani sono stati calpestati. La loro iniziativa è una pressione forte. Così dice a Laura Pertici a pagina 14 Repubblica la figlia di Yulia Tymoshenko riguardo alla richiesta di Monti e Rajoy di poterla incontrare. L'avete sentito anche nella cronaca, è stato preso un assicuratore, un uomo che durante i festeggiamenti, dopo la semifinale con la Germania, aveva visto bene di prendere una carabina e sparare un colpo. Questo colpo però purtroppo è andato a colpire una bambina che passava sotto nella macchina dei genitori, è stata colpita alla schiena, è stata operata, fortunatamente è fuori pericolo. Ma certo, una vicenda incredibile. D'altronde raccontano i giornali che questa persona, secondo gli inquirenti, sarebbe stata pronta a festeggiare, e lo usiamo tra 800.000 virgolette, anche ieri in caso della vittoria dell'Italia. Il normale assicuratore ha ferito la bambina sparando per fare festa, così a pagina 31 del Corriere della Sera racconta Anna Campaniello. E la storia di quest'uomo, Leonardo Zarrelli, celibe, assicuratore, un appartamento in cui vive nel quartiere di Monte Olimpino a Como, un arsenale trovato con 13 tra pistole e fucili e un'infinità di munizioni. Dopo la vittoria della nazionale ha deciso di mettere che cosa? Una lattina, pare, una lattina sul davanzale del balcone e dalla sua casa, che trasformata peraltro da tempo a poligono di tiro, ha deciso di sparare per colpire la lattina. Questa sarebbe stata la dinamica. Il colpo è stato deviato ed è andato a colpire la bambina che passava sotto nella macchina dei genitori nella schiena. E così. C'è chi festeggia anche così. Va bene, archiviamo l'aspetto calcistico e non solo, archiviamo questi europei di calcio. Alla vigilia forse davvero non pensavamo di poter arrivare in finale, poi la finale è finita con un'amarezza incredibile. Sta di fatto che veniamo alle cose italiane, dove oggi è il giorno in cui Enrico Bondi dovrebbe fare vedere qualcosa, tra oggi e domani per la verità, degli effetti di quella spending review, quella pratica per la quale si è guadagnato la nomea di Mister Mani di Forbice, no? Io ve l'ho detto, dovete immaginarlo con questi forbicioni pronti a tagliare. Allora, intanto volevo darvi questo retroscena che viene citato da Repubblica, pagina 23, nell'articolo di Francesco Bei e Alberto D'Argenio, sotto il titolo «Ora scatta l'allarme dei partiti sui tagli, saremo noi a pagare in campagna elettorale», perché molti partiti dicono ora si taglia sugli statali, si taglia sulla sanità, e i partiti poi sono coloro che, essendo in campagna elettorale, dovranno spiegare, giustificare ai propri elettori questa situazione. Ma attenzione, nel governo, questa è il retroscena, nel governo c'è chi, racconta Repubblica, si sperava nello stellone di Prandelli. Se vince l'Italia, per una settimana possiamo far passare qualsiasi cosa. Questa è la frase che viene attribuita non si sa chi all'interno del governo. Se vince l'Italia, per una settimana, come dire, l'euforia dei festeggiamenti, la gente pensa ad altro, noi possiamo far passare qualsiasi cosa. Leggasi e traducasi questo qualsiasi cosa come, immagino, dei suppostoni giganti. No, voglio vederla così. Sta di fatto, i tagli. Allora, siamo arrivati forse, anche se abbiamo una spesa pubblica di 800 miliardi di euro, si parla di 9 miliardi più o meno, no? Questo le cifre aggiornate, spending review, il governo accelera, pronto un pacchetto da 9 miliardi, così titola per esempio Repubblica, dove si va a colpire certamente gli statali, i sindacati del comparto amministrazione pubblica sono sul piede di guerra, dovevano incontrare oggi Monti, l'incontro sarà domani. L'Unità titola in prima pagina «Basta tagli alla Tremonti, i sindacati pronti alla mobilitazione». Il Corriere della Sera annuncia «Il taglio degli statali sarà fatto così, via un dirigente su 5». A pagina 23 Roberto Bagnoli. «E via il 10% dei ministeriali, saranno qualcosa meno di 10.000 entro l'anno, 80-90.000 entro il 2014, in teoria nell'arco di 3 anni la cura dimagrante per il popolo del pubblico impiego sarà di 100.000 dipendenti, in parte accompagnati verso la pensione con ricorso alla mobilità o con una proroga della riforma Fornero, tutto questo è ancora da decidere». La gran massa dovuta al riassetto organizzativo e al contestuale blocco del turnover, cioè uno va in pensione e non viene sostituito da nessun altro. Si taglierà così? Staremo a vedere. Ripeto, mi ha colpito settimana scorsa, credo venerdì o sabato, Bonanni ha detto non si facciano razionalizzazioni e tagli sugli statali o siamo pronti alla mobilitazione totale. Insomma, finita l'euforia. Non c'è stato lo stellone di Prandelli per cui non si può fare qualunque cosa perché gli italiani sono attenti. Staremo a vedere dove si taglierà. Forse anche le province, ma questa si sa è un po' la cosa quasi ridicola di cui si parla da anni. Io dico ridicola non perché sia giusto, no, le province possono avere tutte le ragioni del caso. Avremo ospite il presidente della provincia di Firenze alle 8:20. Il tema è che è ridicolo il fatto di parlarne da anni e non fare nulla. Allora, o si fa qualcosa oppure non se ne parli più, per carità di patria. Comunque La Stampa ancora titola, a pagina 7, riparte la lotteria delle province, cancellate 20 o forse anche 40. Mancherebbe da aggiungere o forse nessuna. Eccoci qua allora, sui giornali invece danno notizie un po' di tutto, di tante pagine dedicate a tanti temi. C'è una notizia con la quale ieri apriva Libero, ieri domenica, il giorno prima veniva data dalla Stampa come anticipazione, e che oggi è riproposta da qualche giornale, ma viene messa un po' così, in sordina. Vale a dire, è il fatto che il ministro allo sviluppo economico Passera è indagato, sarebbe indagato, questo dalla procura di Biella. È una vicenda che risale ad anni passati, quando Passera il numero uno di Banca Intesa, o l'accusa secondo per esempio l'Unità, uno dei giornali che dà la notizia a pagina 3 con Marco Tedeschi, sono presunti reati fiscali risalenti agli anni 2006 e 2007, quando Passera era l'amministratore delegato di Banca Intesa. In quella veste firmava dunque i bilanci, le dichiarazioni fiscali del gruppo e delle controllate. E proprio dietro una di queste controllate, la Beaver Bank, la cassa di risparmio di Biella e Vercelli, per quello indaga la procura di Biella, si nasconderebbe un'operazione finanziaria illegittima e finalizzata a ottenere vantaggi fiscali. Su questa ipotesi appunto indagherebbe la procura di Biella, mettendo sotto indagine l'attuale titolare dello sviluppo economico. Il giornale fa un'intera pagina, pagina 13, a proprio non tanto, qui è interessante, la notizia non è tanto l'indagine su Passera, ma la notizia secondo il giornale è il fatto che i giornali non ne parlino. Il silenzio assordante su Passera indagato, questo è il titolo a pagina 13 con Emanuela Fontana. Nessun esponente di esecutivo e maggioranza chiede conto delle grane del super tecnico. A protestare solo Storace della destra e l'Italia dei Valori. Anche Libero, che ieri, ripeto, apriva tutta pagina in prima pagina su questo, chiarisca o si dimetta, l'IDV salta già addosso a Passera indagato, ma soprattutto è l'Italia dei Valori messo in primo piano da Libero come la forza politica, l'unica forza politica che critica, insieme a Storace, Io lasciai per il Lazio Gate. Va bene, brutte notizie invece per quel che riguarda l'IRPEF, le tasse municipali. Il Sole 24 Ore fa sapere che l'IRPEF locale cresce in mille comuni d'Italia. C'è chi punta direttamente al massimo, da Palermo a Catanzaro, da Torino a Sassari, passando per Savona e Parma. Chi differenzia il trattamento in base al reddito, come accade a Milano, Pavia, Cuneo, Ferrara o Cagliari. Tutti i dettagli nell'articolo di Cristiano Dell'Oste e Gianni Trovati a pagina 3 del Sole 24 Ore. Sta di fatto che vi diranno che i comuni sono stati trovati in dissesto finanziario per colpa del sindaco precedente, vi diranno che i tagli del governo centrale portano le casse locali ad essere esangui, insomma vi diranno tutte queste cose. Sta di fatto che le tasse municipali aumentano, alla fine su chi ricade come ultimo anello della catena. Lo sapete anche voi in un quiz da zero lire, su chi ricade? Su tutti noi cittadini, cari ascoltatori. E comunque tutti i dettagli di tutte le città, tutti i capoluoghi di provincia, come hanno trattato il tema delicato dell'addizionale IRPEF, lo trovate sul Sole 24 Ore, in apertura di prima pagina e poi a pagina 3. La notizia politica del giorno certamente è la Lega 2.0, la nuova Lega di Roberto Maroni, tanto che la Padania esce in edizione straordinaria anche lei insieme a Libero. Lunedì, prima il Nord, via da Roma, questo è il titolo con tanto di punto esclamativo. Roberto Maroni, segretario. A dire la verità è stato un congresso nel quale Umberto Bossi... Le lacrime, ieri è la giornata delle lacrime, le lacrime del senatore, le lacrime degli azzurri, le lacrime dell'Italia, le lacrime di Umberto Bossi, tutti a piangere, qui in Italia una disperazione incredibile, è stata una domenica, forse il gran caldo, non era sudore, non era Caronte, erano lacrime, anche quelle di Umberto Bossi, le lacrime del senatore a pagina 13 di Libero. Un addio amaro, un addio anche condito da alcuni sospetti, forse mi hanno fregato, titola così Libero. ieri ha parlato dicendo intanto che qui nessuno ha rubato, ma la colpa è di Roma, e poi avvertito forse dai suoi fedelissimi ha messo in dubbio lo statuto, al che gli hanno detto lo statuto è stato votato all'unanimità. Insomma, un Umberto Bossi alla fine che ha lasciato con la metafora di Salomone, che non sapeva decidere, no? Esempio biblico. D'altronde ho letto che anche Renzo Bossi andrà a Medjugorje. Umberto Bossi invece spesso si sia avvicinato molto alla religione, lui che è sempre stato notoriamente un mangiapreti. Non sapeva decidere di quale delle due madri è il bambino, no? Re Salomone, e disse allora, decise di dividere a metà il bambino. E la vera madre, a questo punto, pur di salvare il bambino, disse che il bambino era dell'altra madre. Ecco, con questa metafora Bossi dice il bambino è tuo, a Roberto Maroni, come dire, pur di salvare la Lega non la divido e la cedo a te, anche se la Lega è mia. Questo è il sottinteso. Su questo però segnalo in chiusura il Corriere della Sera, intervista sulla vicenda Maroni, chi? Roberto Formigoni. Elisabetta Soglio fa un'intervista a pagina 19, la Lombardia un leghista, richiesta legittima nel 2015 però. Come dire, io vado avanti, non pongo veti, ma ritengo che in Lombardia convenga tutti andare avanti fino al 2015. E poi Formigoni, l'appoggio al governo Monti era discriminante, è bene cominciare seriamente a pensare al 2013. Tutta una lunga intervista su Maroni, sulla Lega. Maroni è stato chiaro, via da Roma, è nostro dovere dialogare per trovare strade comuni. E ancora un appello alla Lega per una nuova alleanza, più che altro serve un nuovo programma. Senza Bossi ora è più o meno facile, in questo io non entro. Insomma, un Formigoni che per mezza pagina del Corriere della Sera parla con Elisabetta Soglio sulla sua successione, sulla successione che comunque deve arrivare nel 2015 secondo lui, e sulla nuova Lega 2.0. Mi colpisce in questa intervista, e con questa considerazione vi lascio, che Roberto Formigoni, è vero, ha detto non parlo più delle vicende secondo le quali sarei indagato, ma lui dice non ho ancora ricevuto nessun avviso di garanzia, anzi querelo tutti coloro che dicono il contrario. Comunque il dato di fatto, la notizia è questa: il Corriere, che per primo ha detto Formigoni è indagato, smentito da Formigoni che dice non sono indagato, intervista in esclusiva per la prima volta Formigoni e non gli fa neanche mezza domanda su questa vicenda.